sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi sento che sarà una bella giornata per me e sono felice. Oscar Giannino ha dimenticato la sua penna qui sulla mia scrivania e spero che non se la verrà a riprendere. Chiunque guardi nella webcam di Radio 24 vedrà tenere in mano questo meraviglioso oggetto, immagino, spero, di oro massiccio. E quindi non trovo occasione migliore per dare fondo a un mio ricordo fanciullesco. Ehi, me segui de Tor, il mio cesto. Pardon? Mon cesto. Ah, oui, monsieur, tout de suite. Attention, fragile. Damnation, mais bien, bien, s'il vous plaît, bien. Qu'est-ce qui fait des manières à Paris, Carrefour. Oh, siamo arrivati, esci. Siamo a Parigi. A forza di viaggiare in quella cesta mi è venuta la cestita. Caltanissetta, Parigi, 21 giorni di viaggio. Tre fermate. Questo meraviglioso stralcio di alta cinematografia italiana è tratto da I due Sanculotti con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, film del 1966. Fate bene attenzione perché nessuno dei particolari che ho appena dato è indifferente a prendere in mano il filo di questo racconto. I due Sanculotti, non a caso il titolo già ci fece venire un brivido alla schiena, lo vidi proiettato nel refettorio dei Salesiani nell'anno 1968 in cui facevo il quarto ginnasio. Ricordo perfettamente che una volta a settimana portavano un grosso proiettore, spostavano i tavoli dove noi mangiavamo con ancora le bricioline, con ancora le bucce d'arancio, con ancora le croste di minestrone e ci facevano vedere il film, mi pare, del giovedì. Il primo film che io vidi fu proprio I due Sanculotti. Ricordo che a un certo punto, ricordo pochissimo la trama, era un film ambientato nella Rivoluzione Francese, riscritto ad usum di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Però ricordo che ogni tanto c'erano delle scene probabilmente giudicate troppo salaci o troppo sconce per il prefetto dei Salesiani, si chiamava, mi pare, Don Pieri. E quando vedevamo, non so, probabilmente Franco Franchi entrare nel boudoir di una damina in crinolina, metteva la mano davanti appunto alla lente del proiettore e vedevamo la mano del prete che si muoveva e non riuscivamo a vedere la scena. Di questi episodi scarni, confrontate la location, confrontate il clima, confrontate il titolo ambiguo, confrontate la censura del prete, confrontate soprattutto l'anno, possiamo trarre alcune importanti indicazioni su un filone cinematografico che vorrei rievocare questa mattina, come sempre faccio, con il sommo Giuseppe Sansonna. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Allora, questo stralcio di ricordo ci porterà a parlare di quel momento importante della nostra cinematografia nazionale connotato dalla coppia Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. La prima riflessione che vorrei sottoporti, vedo che il film I due Sanculotti è del 66. Come mai soltanto 3 anni dopo era già nel circuito dei refettori dei Salesiani? Questi film, i film di Franco e Ciccio, che hanno foraggiato per anni le produzioni italiane, arrivavano direttamente nei cinema di seconda e terza visione e poi finivano subito in questi circuiti parrocchiali e salesiani non passavano dai cinema di serie A nel 64 loro hanno fatto 18 film, cioè la coppia Franco e Ciccio ha realizzato nell'anno solare 1964 18 film, quindi erano Di un film al mese, sembra, sì, impossibile, girati in 2 settimane, cambiandosi di abito, anche intrecciando i film stessi, quindi era un continuo alla Fregoli. Franco racconta queste scene alla Fregoli, loro che in macchina si cambiavano, poi facevano anche teatro nel frattempo, continuavano a fare la rivista, facevano televisione, erano le galline dalle uova d'oro degli anni 60, stava tramontando, almeno dal punto di vista commerciale, l'astro di Totò per i produttori, qui si parla Totò e Peppino, dei cannibali produttori dell'epoca, erano personaggi ferocissimi, quindi avevano adocchiato in Franco e Ciccio le nuove galline dalle uova d'oro e quindi li sottoponevano a questo tour de force. Ecco, come nascono i due? Come si incontrano? Qual è il motivo per cui, intanto, per cui ne parliamo questa mattina innanzitutto, solleciterei, visto che ieri con la motocicletta ci siamo riusciti abbastanza bene, di dare fondo alle memorie più nascoste e anche più infime, diciamo, secondo un occhio comune che vorrebbe classificare i beni di consumo piacevoli, illeciti ed illeciti. Beh, scandagliate la vostra memoria e raccontate cosa ha significato per voi andare al cinema a guardare i film di Franco e Ciccio. 800 24 00 24. Sai chi siamo noi? Due gran cornuti. Ci ha riconosciuti. Ferma. Te lo mangi? Non mi fai mangiare mai? Ciccio, perché quell'uomo è legato al mulo? Tutti i morti cascano se li metti sopra un mulo senza legarli. Morto è? Cadavere. Ciccio, respira ancora. Giuseppe Sansonna, in questo brevissimo stralcio di vita abbiamo visto attraversare tre filoni fondamentali della cinematografia di quegli anni: L'Esorcista, Ultimo Tango a Parigi e Per un pugno di dollari, tre pietre miliari di tre cambiamenti epocali nella storia del cinema italiano. E Franco e Ciccio, come mai, li riprendono in mano e li reinterpretano? Allora, li riprendono subito, bisogna fare dei distinguo, no? Per un pugno nell'occhio addirittura è del 64, quindi nasce a ruota dello sconvolgimento mondiale che aveva portato Leone, copiando il film da Kurosawa, Yojimbo, e trasformando il western in qualcosa di italiano. E loro subito fanno Per un pugno nell'occhio senza pietà. Da un pugno di dollari, diciamolo, perché non tutti hanno l'età per ricordarlo. Da Per un pugno di dollari fanno subito Per un pugno nell'occhio con questa commozione di Franco. Quindi loro a tempo reale creavano il trash rispetto al modello più alto che... Sì, sì. Più alto, sempre con un livello di interpretazione relativo che creava il mercato del cinema. Questo non partiva esattamente da loro, partiva dal sistema produttivo e degli sceneggiatori che immediatamente li impiegavano in questo. Non era... Quindi Scary Movie l'abbiamo inventato in Italia? Assolutamente, c'era una... nasceva questo senso della parodia immediato, è molto italiano. Abbiamo sentito un pezzo di Ultimo Tango a Zagarolo, che quando un'opera d'arte non è una vera opera d'arte, la parodia diventa la vera opera d'arte. In questo caso Ultimo Tango, Carmelo Bene diceva che quello sì che è un gran film, Ultimo Tango a Zagarolo, non la sua sciagurata parodia parigina, quindi definendo quello di Bertolucci una parodia del film di Zagarolo. Sì, perché il film di Bertolucci, Ultimo Tango a Parigi, che infatti ricordo Coevo, io avevo 14 anni quando uscì nelle sale cinematografiche. Mio fratello, con un anno meno, non aveva l'età per entrare, facemmo di tutto per entrare entrambi, ma lui non ci riuscì, non lo fecero entrare. Poi alla fine non c'era nulla di particolarmente innominabile, sì. Non lo cogliemmo se non un uso indiscriminato e improprio del burro per qualche anno, ma solo quello fu la storia, perché non ci fu altro, diciamolo, perché anche sì, su questo non sì. È detto un film che subì la censura potente, sì, sì, sì, e inequivocabile, fu radiato, cancellato, sì, bruciato per una scena in cui Marlon Brando faceva una banalissima e anche castissima sodomizzazione, diciamo, della sua bella, infarcendola come fosse sandwich. Maria Schneider, invece, in Ultimo Tango a Zagarolo di Nando Cicero, all'opposto, Franco subisce le angherie della bellissima Martin Beswick, che era una regina dei trash movie molto bella, e solo che Franco ci porta tutta la sua fame atavica sotto proletaria, e quindi quando davanti al burro se lo mangia, lo spalma su un panozzo da muratore e lo divora. Beh, non mi fai mangiare mai, dice, quindi, e questo è un impiego appunto improprio che smitizza. Però è singolare, guarda, io mi ricordo che tutta l'Italia fu lacerata nella sua coscienza più profonda, nei suoi alti valori morali, diritto di impugnare le vie naturali dell'affettività, da questa situazione ridicola del burro di Marlon Brando e la Schneider che la imburrava, che è una cosa a vederla oggi fa ridere. E loro già ebbero la forza, il coraggio e l'intrepidezza di sdrammatizzare questa idiozia del burro. Assolutamente. Nando Cicero, che è il regista di questi film, fa una parodia filologica molto attenta del film, smitizzandolo in tutto, perché invece di Parigi siamo a Zagarolo, quindi c'è questo sottoproletario affamato che dirige questa pensionaccia orrenda con questa moglie che, a differenza di Ultimo Tango a Parigi, vive e vegeta, è grassa e lo angaria come lo angarierà poi l'amante. Sì, c'è da dire anche che Parigi, nella visione idealistica dell'italiano che ci vede il luogo della fuga, il luogo della improprio accoppiamento e della fuga e della clandestinità extramatrimoniale, è il segno più pecoreccio dell'immagine. Io conosco un'infinità di idraulici, con grande rispetto per la categoria, che scappano dalla moglie il fine settimana e si portano la loro segretaria a Parigi. Conosco persone di altissimo livello, lo fanno tutti, lo fanno sindacalisti, lo fanno politici, lo fanno impiegati, lo fanno tutto. Insomma, Parigi per gli italiani è il luogo della trasgressione. Fai il film dell'imburrata e la fai a Parigi. Sì, esatto, è molto retorica questo esotismo, questo rapporto d'amore consumato in questo appartamento vuoto, con queste parole languide di Brando, della Schneider. E quando lo fa Franco Franchi con la stessa voce flautata, col cappotto di cammello, col bavero tirato su, l'effetto è irresistibile. E l'ultimo dei tre film che abbiamo citato, velocemente, L'esorcista. L'esorcista ci terrificò veramente, e loro fecero l'esorciccio, anche grande motivo. Unico effetto speciale, girato a casa di Ciccio, poverissimo il film, è l'unico effetto speciale, la testa di Banfi con riporto d'Antan che si gira su se stessa come la testa della donna posseduta nel film di Friedkin, quindi grandi effetti speciali. Un Ciccio nei panni dell'esorciccio, che è il titolo e metà del film, che è strepitoso, è con i capelli lunghissimi, è questo viso affilato altissimo e queste mani lunghe che aveva Ciccio, che erano mani innaturali, mani... Poi parleremo infatti della sua lettura in chiave tragica, dove fu veramente meraviglioso. Ecco, primi ascoltatori che reagiscono. Mariella, buongiorno. Ah, buongiorno signor Nicoletti. Sì, io volevo riferirmi non a qualche ricordo della mia infanzia. Ma non ne ha avuti legati a Franco Ciccio? Sì, mi ricordo gli sketch in televisione, molto divertenti, insomma io ho 52 anni, quindi può localizzarli nel tempo. Come sempre in un pasticcio sono finiti Franco e Ciccio. Franco e Ciccio, esatto. No, ma io pensavo a una cosa che mi è venuta in mente, è accaduta quest'estate proprio, come dicevo alla signora che mi ha risposto. Ero a Creta, su un autobus di linea, con mia figlia di 8 anni, che conosce Franco e Ciccio, così di striscio per averli visti in qualche piccola replica televisiva. Sì, c'è il vantaggio che adesso i film di genere riappaiono nei canali della TV satellitare, quindi è possibile che li vedano. Vabbè, ma no, più che altro in quei piccoli collage che fanno sulla Rai nei giorni di festa, no? Lei ricordava Rinaldo in campo. Nella versione in cui erano presenti Franco e Ciccio. Niente, noi stavamo chiacchierando, io e lei da sole, autobus deserto, pomeriggio torrido, sale un tese e fa: Italia, dico sì, e questo fa: Franco e Ciccio. Comincia a ridere parlando di Franco e Ciccio, questo si ricordava, li aveva visti, perché abbiamo detto: ma sono morti. E quando gli ho detto che sono morti, questo ha pianto. Io sono rimasta. E mia figlia, cioè il signore di Creta, non voleva credere, non solo conosceva che fossero mortali, ma era dispiaciuto del fatto che fossero morti, come se gli, non lo so, una faccia veramente. E qui sentendone parlare, poi con mia figlia abbiamo chiacchierato a lungo, perché gli ho detto: ma forse li vedrà con qualche satellite, qualche cosa, si collegheranno alla TV italiana, non lo so. Però mi è sembrato strano. No, strano, è una cosa che non mi aspettavo. Vediamo se Sansonna sa darci qualche elemento in più. Esiste ancora un sottomercato vivido dei film di Franco e Ciccio che va oltre l'informazione rispetto alla loro realtà biografica? Io penso che la loro comicità sia intramontabile, perché è anche molto fisica, il senso della gag molto fisico, con Franco che poteva fare la scimmia, poteva fare qualsiasi cosa, un viso elastico, quasi da cartone animato anche in molti film, e lo stesso Ciccio era perfetto nel farli da contrapposto. Poi soprattutto mi interessa questo, mi piace questa cosa di associare l'Italia a Franco e Ciccio, perché rappresentano un pezzo notevole della nostra storia. Quando Pasolini parla di sono una forza del passato, mi viene da pensare a loro, poi li userà, come vedremo in un film, esattamente per quello che sono, ovvero pupi che hanno reciso i fili, due pupi siciliani che hanno reciso i fili. E sono legatissime alla storia d'Italia, perché partono dal sottoproletariato affamato, loro nascono in famiglie poverissime, soprattutto Franco, e Franco nasce come teatrante di strada, fa la posteggia, ovvero con una sedia va in giro vicino ai teatri, davanti alla gente che non può pagare il biglietto di teatro, va a vedere la posteggia, ovvero Franco che in piena guerra fa Hitler, fa Chaplin, fa un surrogato del teatro per chi non può pagare il biglietto, e mangia di più di Ciccio, che invece faceva il teatro serio sui palcoscenici, però passava la vita sui treni, sfuggendo ai controllori, sui respingenti. Tu mi hai detto, Giuseppe, un dato interessante: proprio qui sotto Radio 24, la nuova sede Radio 24, Piazza Indipendenza, dell'indipendenza, c'è il luogo storico dove si riunivano Franco e Ciccio. Sì, adesso c'è un computer discount, però prima c'era un bar negli anni 60 dove Franco e Ciccio si riunivano con tutto il loro clan di amici che poi compariranno in tutti i film. L'enfisematico Nino Terzo, quello che faceva quello con i baffoni, sì, da sì, personaggio di Iacovitti, poi c'era Andronico, c'era Lino Banfi che era un loro amico. Si riunivano, all'inizio prendevano magari un caffè in 10, si racconta, insomma, perché insomma, i primi tempi erano di indigenza, poi dopo con il grandissimo successo continuavano a riunirsi qua e a pensare progetti fra un caffè, una brioche, e creavano un'atmosfera giusta per i loro film. Penso che dietro c'è anche la casa natale di Enrico Fermi, quindi questo luogo è attraversato da dei filoni sì, indifferenti sì, di storia. Daniela mi scrive su Facebook: Franco e Ciccio, uffa, ma perché siete cresciuti a questi film, che voi uomini d'oggi siete così? Noi uomini d'oggi siamo così perché abbiamo visto questi film. Luigi è d'accordo? Pronto? Sì. Dunque sì, adesso non so se sono tempestivo con i miei racconti. Io volevo dire due cose. Una, che una volta sono stato avvicinato da un produttore che voleva in qualche modo nobilitarli e si era rivolto a me per un soggetto, una trama. E lei doveva finanziare, cosa doveva fare? Come? Lei cosa doveva fare, finanziare o scrivere? No, scrivere. Ah, scrivergli. Lei fa l'autore? Sì, io sono famoso ma nessuno lo sa. Dunque, se non ci dice come si chiama, poi magari può esserlo conosciuto. No, vabbè, non importa, io non voglio farmi da pubblicità a spalle. No, comunque l'esperienza è stata divertente perché io ho fatto la mia bella trama, la mia bella pre-sceneggiatura, gliel'ho portata, ho avuto un incontro con loro, i quali però erano completamente disinteressati ai contenuti, cioè gli interessava soltanto il titolo. Infatti non hanno neanche cosato di striscio, come si suol dire, la mia sceneggiatura, la mia proposta, che non era male, e discutevano tra loro se fare La calda notte dell'ispettore Ciccio oppure Sati e Ricon. Insomma, per loro l'importante era il titolo, poi la merce dentro. Ecco, un'altra. Ma si è fatto cosa... poi il film? No. Come? Il film non si è fatto? Il mio no. No, assolutamente, non era il caso, poi non era sovradimensionato, certamente, forse troppo intellettuale o a sapere, non lo so, insomma non si è fatto, sono una delle mille cose che si iniziano nel cinema e poi non si è fatto. Quindi lei però li ha visti personalmente, li ha toccati? Sì, li ho visti personalmente. E che impressione davano a vederli di persona? Dunque, allora, ecco, quella è la seconda cosa che volevo dire, erano molto più bravi nella vita normale che non quando si esibivano come Ciccio e Franco. Io ricordo delle scene bellissime con loro, per esempio il magro, come si chiama, Ingrassia, che raccontava che una volta era andato dal dottore con Ciccio perché, qual era il comico? Franco e Ciccio, Franco era quello più istrionico. Certo, per averci scritto un film sopra non è che ne ha una conoscenza ecco, allora così capillare. Si era preoccupato per Franco, lo aveva portato dal dottore e faceva la scena del dottore che, visitando Franco, seguitava a tener d'occhio lui. Come dire, se io visito questo qui, ma guarda che l'ammalato sei tu. Era una scena comica, degna di De Filippo, di Totò, di cose del genere. Purtroppo, ecco, a me è rimasto un po' il rimpianto, diciamo, che queste qualità non si siano mai o quasi mai fatte vedere nei film. Cioè tutti scivolando sul repertorio loro più facile, gli ammiccamenti, quelle storie lì. Quindi secondo lei sarebbe stato un backstage che meritava di essere trasmesso? Oggi si fa abbastanza facilmente, ma mi sembra Sansonna, con la velocità e la frettolosità in cui si girano i film, figuriamoci, hanno tempo per il backstage. Loro hanno avuto questo rimpianto di non aver avuto degli sceneggiatori che gli abbiano dedicato tempo, dei produttori che gli abbiano dedicato tempo. Per esempio, un loro rammarico era quello di non aver fatto ad alti livelli il Don Chisciotte e Sancho Panza, che erano loro come corpo istoriato, scolpito dalla vita, dalla miseria dei primi anni, dalla gavetta teatrale. Loro appunto rappresentavano qualcosa che eccedeva anche le intenzioni, non avevano bisogno di sceneggiature, funzionavano davvero come coppia, come corpo unico, uno un palo della luce, un palo del telegrafo, e l'altro intorno questo corpo snodabile che poteva irrigidirsi quando facevano cuore in grado. Ma rappresentavano due categorie esistenti in qualunque espressione dell'umanità, quindi potevano essere messi e attraverso loro passare qualsiasi racconto. Certo, poi sovvertivano questi titoli, Indovina chi viene a merenda, insomma era una irrisione continua del cinema mainstream che li escludeva invece, perché loro erano dedicati, i loro film passavano appunto sulle sale. Però li escludeva fino a un certo punto. Teo, senti tu! Basta adesso! Ammazza! Dai, non fare così anche te. Teo, senti, lo vedi che tuo fratello si arrabbia? Venite giù, su! Voglio una donna! Tutte mi possono prendere a calci. Tutti mi possono sputare in faccia. E io devo tenere la bocca chiusa. Chiusa nel cortile del carcere. All'aria mi hanno messo in mezzo. Mi hanno minacciato. Mi hanno detto, Giacalone, se parli la facciamo pagare ai tuoi figli. Siamo rimasti in tre. Tre somari e tre... Questa è la canzone della scena che citava prima il nostro ascoltatore. Ho citato, non a caso abbiamo ascoltato Amarcord, il famoso Voglio una donna, è un pezzo di Quinto Potere, Violenza Quinto Potere. Vediamo un po' i ruoli, chi è andato a coglierli, a pescarli e collocarli in ruoli ufficiali, non i ruoli di serie B come allora venivano considerati. Federico Fellini da sempre vedeva in loro più realtà che in tanta commedia italiana, quindi quando Ciccio, negli anni 70, quando fa Amarcord, sceglie Ciccio per fare lo zio Teo, lo zio matto di questa famiglia che poi si rifugia sull'albero e invoca la sua, lo suo spasmodico desiderio di donna, di femminilità. E lo sceglie appunto perché ha questo volto lunare, scarnificato, questi occhi anche piccoli da formichiere, però che hanno qualcosa di sognante. E poi credibile nella follia. Nella follia, assolutamente. Era una figura appunto lunare e giocosa, e lo fa salire su quest'albero e quindi lo valorizza, valorizza il suo essere scarnificato, il suo essere di questa magrezza impudica. Che poi anche Florestano Mancini tempo prima aveva utilizzato, perché questa idea di sofferenza, di dolore che si portava nel corpo Ciccio era perfetta per questi ruoli drammatici. Lui aveva fatto questa canzone a Sanremo che era Canto per Magnà, e da lì l'avevano visto Mancini l'aveva visto lì, Tanto per cantare, rifatta con Canto per Magnà. Doveva essere una canzone comica, però loro hanno visto lì il lato profondamente drammatico di Ciccio. Senti, scrive un ascoltatore su Facebook, Michele, dice: sono loro che hanno inventato il genere parodistico del luogo comune. Mel Brooks è venuto dopo, sei d'accordo? Ma ovviamente Mel Brooks ha un livello di raffinatezza e di sottigliezza un po' diverso. Qui c'è qualcosa di più viscerale, più legato alla terra, più legato appunto ai pupi siciliani. Franco era proprio una creatura della terra, ancestrale, qualcosa. Ciccio era, non a caso, non ha mai fatto la strada, era il grande attore che pretendeva di essere un aristocratico in decadenza, sembrava. Infatti in un film di Bava, di Mario Bava, le due spie vengono dal semifreddo, c'è una scena strepitosa in cui Vincent Price, che era un po' una versione nobile di Ciccio, gli assomigliava moltissimo, Ciccio era la versione scarnificata, esangue, siciliana di Vincent Price, e c'è una scena in cui Vincent Price, che fa una sorta di Goldfinger, arriva davanti a una cornice, dietro c'è Ciccio e simula lo specchio, si specchiano l'uno nell'altro, la versione nobile e la versione sottoproletaria siciliana. Quindi era quello a cui attendeva Ciccio come fisicità, un aristocratico. Lui rappresentava anche il suo dramma di non essere all'altezza del suo modello interiore. Melog 2.0. Telefono al bar, ma manda qualcosa, tanto paga il ministero. Se ci posso, siamo fortunati. Sul telefono c'è scritto bar, c'è una B, una A e una R. Io telefono subito. Squilla il telefono rosso. È la guerra. Pronto? Bar? Signor sì, comandi. Sì, due bombe al ministero. Pronto? Qui bar. Sì. Attendiamo, conferma ordine, due bombe al ministero. Sì, due. È presto anche. Ma non basterebbe una? No, due ho detto. Noi non badiamo a spese. Signori siamo. All'idrogeno? Beh, avrei preferito alla panna. 800 24 00 24. Stiamo parlando della cinematografia di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Una maniera profonda per attraversare il nostro paese nei suoi modi d'essere, rappresentati da due maschere, da due marionette che hanno tagliato i fili, da due modi d'essere così visceralmente legati alla terra che difficilmente poi hanno trovato degli emuli nelle tante coppie della comicità italiana. Lo stiamo facendo con Giuseppe Sansonna, in particolare questa telefonata di un film, mi sembra del 64 più o meno, mi sembra, era I due pericoli pubblici. Telefonava Franco ha un fantomatico bar che deve essere un centro di somministrazione bombe, qualcosa del genere. Bombardamento aereo radiofonico, perché poi tutto era surreale, no? Anche in questo è un film di Fulci, che è stato forse il regista migliore con cui hanno collaborato, che è un regista grande artigiano di cinema, ma di grande cultura, di grande sensibilità, che rifà a suo modo il Dottor Stranamore calandoli in questo ruolo. Poi c'è Franco con alla Hitler col baffetto, che riprende quei personaggi che faceva nella Posteggio, appunto, da ragazzo, quando imitava Hitler per strada. E la loro visceralità, la loro perfetta fusione funziona benissimo con Fulci, che li inserisce in queste gag incalzanti che appunto citano Kubrick e lo trasformano in qualcosa di molto italiano, con i due che ordinano queste bombe alla crema al bar e poi creano un disastro nucleare. Sentiamo Claudio. Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono d'accordo con l'impostazione che ha dato il critico a lei, però il discorso mio era un altro, cioè in quegli anni in cui noi giovani, tristi e solitari, le nostre serate le passavamo anche al cinema, certamente questi attori servivano da mediatori per una cosa molto importante, cioè noi avevamo scoperto in un certo senso la multimedialità. Come succedeva? Quando si andava in questi film, tra cui Ciccio e Franco erano parti integranti di questa realtà, il pubblico partecipava, si andava ai cinematografi di quindicesima categoria a vedere spettacoli, non in platea ma in loggione, e il pubblico aveva un compito partecipativo importantissimo. Cioè, per fare un esempio che sia esemplificativo, quando Franco prende un paio di mutandine che trova sul letto, il pubblico commenta in una certa maniera, lasciale cadere, sono sporche, è un eufemismo, ed ecco che l'attore le lascia cadere. Cioè, noi, in un certo senso, cioè c'è una sintonia di quasi preveggenza fra quello che accade nel film. In realtà una partecipazione al gioco dell'attore, che non era particolarmente impegnativo ma stimolante, non era Kubrick ma era, diciamo, Fulci. Ma ciò nonostante, per noi il film non era solamente il film da vedere. Certo, quelli che stasera andranno a vedere per la prima volta il film Avatar di Cameron con gli occhialetti polarizzati non avranno questa emozione, magari ne avranno altre. Però vorrei spiegare, Claudio, per chi ci ascolta e non è detto che appartenga alle nostre vetuste generazioni, che una volta non è che esistevano soltanto le multisala e le sale di proiezione come ci sono oggi. Come ha detto giustamente Claudio, i cinema erano categorizzati in una serie di situazioni e location che andavano dal cinema, come lo conosciamo oggi, fino a dei luoghi totalmente improbabili in cui si andava per far casino, si fumava, si pomiciava, si faceva anche di peggio o di meglio, ma non era assolutamente paragonabile con il cinema di oggi, d'accordo Claudio? Ma certamente, cioè era una mediazione, in un certo senso era una mediazione culturale tra come si può dire, una realtà sbeffeggiata e una realtà che comunque sia andava sbeffeggiata. Cioè, c'era, tutto sommato, c'era una partecipazione emotiva profonda alle gag e alla, come si può dire, alla comicità, perché questo pubblico si scopriva non più passivo ma attivo. E qui voglio dare un'idea, secondo me, guardi, era l'equivalente di quello che oggi chiamano social networking, solo che allora il network non era la rete, non era la connessione, ma il network era il luogo rappresentava il network attraverso cui la gente socializzava, in quella sorta di interconnessione fatta di spettacolo, di cinema, di puzza di fumo, di profumo, di mutande, tutte le cose ci vuole mettere assieme, accadeva qualcosa di fascinoso e misterioso, è vero? Sono perfettamente d'accordo, era l'inserimento di un qualcosa, cioè era una partecipazione emotiva. Grazie Claudio, scusi se l'affretto, ma se non c'è tempo per gli altri, 800 24 00 24, Sansonna, su questo tema. Era appunto il cinema come refugium peccatorum, colmo di afrori, in cui loro, con le loro maschere plautine, come la definite Marion Monicelli, creavano questa interazione immediata, questo grande ritmo, questa concitazione perfetta per quei luoghi, questi cinema di periferia. Enzo, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno, salve. Allora, io c'ho questa cosa da dire. Il fatto che oggi voi state parlando di Franco e Ciccio mi ha riportato alla mente un'altra coppia celeberrima, forse di qualche anno dopo, che sono Bud Spencer e Terence Hill. Detto questo, per dire cose che mi ricordo che volevo apportare oggi, era questo anche, che da bambino una volta fui accompagnato da un collega di mio padre, perché lui non poteva accompagnarmi, era medico e non poteva vedere un film che c'era qui in centro, la centrale di Saron, no? Ed era con Bud Spencer e Terence Hill, quei due poliziotti con i piedi quasi piatti. Piedo nello sbirro e tutto il seguire, sì. E la cosa era, allora entriamo nel cinema, e quei cinema lì che dite voi, proprio di quei tempi, e dopo il primo tempo, io avevo avuto 7 anni, mi sono sparato un quarto d'ora di film porno. porno o zozzi dell'epoca? Porno proprio, pornografici, perché il cinema in quegli anni facevano i film pornografici. Ed è capitato che io sono andato a vedere Bud Spencer e Terence Hill a 7 anni e nella pubblicità mi sono sorpreso i film pornografici. Sanson, è plausibile questa cosa? Ah, io non ho... succedeva un po' di tutto, credo, in certi cinema, penso proprio di sì. Potrebbe... Una volta si stava in cinema a luci rosse, ricordo, erano ben separati. Magari qualche pizza è scivolata così nel trasporto, chissà. Io mi dispiace questo trauma infantile che avrà avuto, perché... No. Costernati. Tu. A 7 anni non è molto auspicabile guardare i film zozzi. Il fatto che voi avete parlato di puzza di fumo, odore di mutande, robe di questo tipo, perché in effetti negli anni 70, quando io ero piccolo, i figli di cinema, io andavo a vedere spesso il cinema, a vedere i film western con mia mamma e queste cose. Sì, però guardi, il discrimine fra l'area soft e l'area hard era nettissimo. L'area soft, i film di Franco Ciccio erano castissimi, poi io avrei capito il trailer di qualche decamerotico o qualcosa del genere. L'area hard era talmente separata che erano dei cinema chiamati a luci rosse, dove andavano soltanto vecchietti bavosi, militari e persone che andavano a cercare i militari, poi alla fine era questo. E Sanzonna, su questa mia terrificante e politicamente scorrettissima annotazione hai qualche supporto? Sì, io volevo riallacciarmi alla telefonata dell'ascoltatore, perché ha citato Bud Spencer e Terence Hill, che invece erano due volti rassicuranti, mentre Franco e Ciccio, nel loro irrompere sulla scena del cinema italiano nei primi anni 60, si mostravano come due facce da manigoldi, come hanno detto per i italiani quando ne erano diretti in Caos, però con una risata solare, avevano qualcosa di più profondo, di meno bidimensionale di Bud Spencer e Terence Hill. Dimmi, gatto, cosa ci mostrerà oggi prima della partenza per le lontane Americhe il signor Mangiafuoco? Cose incredibile, volpe, burattini che cantano, danzano, parlano, ridono, ridono, cantando, parlando, ridendo, ridono, parlando. E dove si possono ammirare tutte queste meraviglie create dal signor Mangiafuoco? Dentro. Sì. Bravo. Solo 4 soldi e potrete ammirare il più grande spettacolo 4 soldi. Mondo. Ecco, questa è un'altra delle maniere per cui oggi magari i ragazzi, i bambini hanno notizia dell'esistenza di Franco e Ciccio, perché c'è il DVD in edicola ristampato continuamente del famoso Pinocchio. Questo è il Pinocchio di Comencini, e qui ci sono Franco e Ciccio che non interpretano il gatto e la volpe, ma lo sono, infatti sono colti in una scena da imbonitore di piazza quando attireranno poi Pinocchio nel grande circo di Mangiafuoco, e sono proprio loro, Ciccio, la volpe affilata, un po' più furba dell'altro, che invece faceva sempre il mamo, in gergo, ovvero lo scemo fra i due comici, e fa il gatto, che questi due cialtroni un po' miserabili, un po' furbeschi, che però ispirano anche una profonda tenerezza e hanno anche una grande fa, animati sempre percorsi, squassati da una non grande vorrei fame. Citare, ma per pietà, semplicemente l'emulazione terrificante che venne fatta molti anni dopo, anzi quasi recentemente, un altro film di Pinocchio di un'altra coppia comica. Ah, sì, no. Non li citiamo, no, nemmeno. Li citiamo neanche, non li citiamo. No, glissiamo. Glissiamo perché fu una cosa veramente indegna. Luca, buongiorno. Buongiorno, sì, in effetti mi avete scippato. No, che... Lei integri. Esattamente, no, perché l'intervento e quando hanno l'interpretazione che è stata fatta da Franco Franchi Ciccio Ingresso nel film era estremamente profonda, e infatti non nominerei nemmeno l'ultima interpretazione che invece è stata fatta, ma bensì si è visto un Franco Franchi, un Ciccio Ingresso dove la volpe era uno smilzo fantastico, un film profondamente pieno di contenuti, con un Manfredi altrettanto eccezionale, ma profondamente pieno di contenuti. Perché, ecco, per farla commuovere, gliene facciamo risentire un altro pezzo. La carità, se sei così ricco, perché non regali qualcosa pure a noi? Sì, sì, regala. Il rincresci, ma non posso. Illustratissimo Mangiafuoco me l'ha dato per il mio babbo. Arrivederci e buona fortuna. Un momento, aspetta. Fermo. Aspetta. Ti ha dato cosa? Cosa? Non ve lo dico. E io non ci credo. Io i ricchi li conosco da lontano un miglio. E poi sarebbe stato l'illustrissimo... Certo, Sanzonna, poi diamo la linea. Per far capire veramente, sentire anche soltanto alla radio, senza vedere le facce, il morso tremendo del morto di fame, bisogna averla passata. proprio così, ed era proprio la vita che scolpita sui loro volti e nelle loro voci. Sentite com'è suadente Franco nell'invocare questa richiesta di zecchini d'oro a Pinocchio. Un po' più imperioso la volpe Ciccio, c'è una variazione sui toni ed erano perfettamente sintonizzati, bellissima. Melog 2.0. Permette, signor Calindri? Francesco Ingrassia di Montreale. Nobile? Nativo, Montreale in provincia di Palermo. Il mio partner, Franco Franchi, di Palermo di Sotto. Perché? Esiste anche un Palermo di Sopra? No, ma lui dorme in un sottoscala. E perché? In che cosa posso esservi utile? Siamo un numero di attrazione, vorremmo far parte in questo mondo meraviglioso della rivista. E che numero fate? Concertisti, e piano e canto. Io sono il piano pezzi classici. E lui canta? No, vorrebbe, ma non può. Non sente e non parla. Poveretto. È vero che sei sordomuto? Dalla nascita. Ci permette questa audizione? Giuseppe Sansonna, questo è il debutto, mi pare, in televisione di Franco e Ciccio. Fanno una sorta di provino davanti a Calindri, il carciofesco personaggio per eccellenza della televisione italiana, brava, bella, buona, catechistica e via dicendo. E l'irruzione di questi parenti del sud, che con loro imbarazzo arrivano in questo salotto buono della televisione italiana in bianco e nero. Metafora dell'immigrazione di quegli anni, interna al paese. Sì. I parenti appunto del sud, i parenti terribili che arrivano e creano lo sconcerto, hanno un effetto straniante davanti all'azimato Calindri che flautato, li mellifluo, li accoglie e poi loro irromperanno e creano queste gag e con questi loro volti creeranno appunto un effetto dirompente nella televisione italiana e poi nel cinema subito dopo. E ci siete cucito dentro. Bene, l'avete rimessa a nuovo. Bravo. Però non avete preso le misure della vostra gobba. Vedo. Ora volete uscire. Giusto. Rompendo la mia giara. Scemo! La giara è mia. E se si rompe un'altra volta a me, chi la paga? E allora? Vorreste tenermi chiuso qui dentro? No, no. Però prima bisogna vedere quello che si deve fare. E che si deve fare? Cosa? Aiuto! Aiuto! Ecco, qualcuno poi pensò che il miglior Zidima con il suo mastice sigillato dentro la sua giara di pirandellesca e di azione non poteva essere che Franco Franchi. I Taviani nell'84 li riconducono a Pirandello che fa parte della loro sicilianità, della loro essenza. Loro lo erano pirandelliani senza saperlo e questo duetto strepitoso li riconduce alla loro dimensione anche carica di sfumature, Don Lollò e invece Ciccio con questo orecchino terribile, quest'aria zingaresca e appunto come dicevo prima i Taviani li definirono due manigoldi, hanno facce da manigoldi ma con una risata solare e quindi cariche di queste sfumature, di questi dettagli drammatici. Poi diciamo che fisiologicamente, proprio in maniera morfologica, Franco si presta bellissimo. Ricordo quella scena con la giara, col capoccione che esce fuori, perché Franco in realtà è una testa decapitata, può continuare a avere vita propria autonoma senza bisogno del corpo che sta sotto, quegli occhi roteanti, questa faccia che lui si è scolpito allo specchio. Lui per avere la mascella mobile raccontava che si dava dei pugni allo specchio faceva delle cose terribili per scampare alla miseria. Da ragazzino capiva che la sua bruttezza poteva essere la sua forza e la sua mobilità facciale, quel roteare gli occhi, quell'essere un cartone animato vivente, poteva diventare il suo riscatto. E quindi si forza, c'era un attore americano, Lon Chaney, che faceva le stesse, dato Frankenstein. C'è un uomo che ride, che si autolesiona. Sì, c'è qualcosa di tragico in questa risata che deve suscitare nella gente. E adesso ci tenevo poi, velocemente, poi sentiamo gli ascoltatori in astesa, di mandare anche invece un'altra interpretazione, secondo me, degna di nota, di Ciccio Ingrassia. Dice Sant'Ignazio che per meglio vincere ogni disordinato appetito, se si è tentati di mangiare in eccesso, si dovrà digiunare. Ebbene, amici, io digiunerò. Voltrano, che hai voluto dire? Quello che ho detto. Ti conosciamo. Tu alludi ad altri modi di mangiare. No, infatti io digiuno, seguendo il consiglio del santo. Perché non digiuni anche tu e tutta la tua corrente? Perché non digiuniamo tutti? Che ci farebbe anche bene. Non abbiamo forse mangiato abbastanza ieri, l'altro ieri? Continueremo a mangiare sicuterat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Questo è un film che potrebbe sembrare datato nella sua collocazione, todo modo. Scusate, il film di Petri tratto dal romanzo di Sciascia, questo ritiro spirituale ma in realtà luogo dei veleni di tutte le correnti democristiane, in cui c'è un politico che è proprio Ciccio Ingrassia. Voltrano, interpreta Voltrano, quindi un'altra mente siciliana, Sciascia, per questo personaggio che è un democristiano che improvvisamente si scopre inappetente, che non vuole più divorare, non vuole più mangiare. E Ciccio in questo film sembra Max Schreck di Nosferatu, con queste mani lunghissime che aveva, questi capelli tutti tirati indietro, nella penombra dell'albergo Zafer, si fustiga, si mette il cilicio. È una figura, un'attualità sconvolgente, devo dire, con figure politiche anche dell'attuale scena. Un film inquietante perché è del 76, c'è Volonté che poi interpreta Moro meglio di Noschese, nel finale muore, viene ucciso dal prete interpretato da Mastroianni, e Moro poi morirà 2 anni dopo, quindi un film anche maledetto per tanti aspetti. Sì, fu detto molto che c'era una profezia sin troppo tangibile, Volonté era troppo Moro per poter essere casuale. Dicevano brutalmente che è così bravo che potrebbe interpretare anche la vedova di Pinelli, cioè diciamo delle cose terribili su questi. Sentiamo Enrico, buongiorno. Nicoletti, ciao, noi ci diamo del tu, ci siamo sentiti altre volte. Ci diamo comunque quello che vogliamo, non c'è problema. Sì, va bene Nicoletti, più o meno abbiamo gli stessi anni. Io ho conosciuto Federico Fellini, siccome io sono un romagnolo, e in un ristorante, anche Fellini piaceva mangiare, no? In un ristorante di fronte all'aeroporto di Rimini. Allora raccontava di Amarcord, quando aveva praticamente Ciccio Ingrassia, no? Che quando poteva si metteva sempre in disparte a mangiarsi un pezzo di pane col salame. Gli diceva Fellini, a quello smagna beh, e lui girava a mangiare. Era una roba impressionante. E queste sono state queste testimonianze. E lei l'ha detto Fellini di persona? Cioè, ma giuro sui miei figli che non vedessero. No, non ci credo, perché non ci devo credere? Cioè, anzi, sono lieto e fiero del fatto che una testimonianza così vicina a un grande personaggio sia approdata alla mia umilissima trasmissione. Quindi ma ti assolutamente, sono... Nicoletti, io dico solamente una cosa. Io telefono spesso a Radio 24 per altre cose, non è che mi ascoltano molto. Però questa trasmissione qui rende le persone, toglie un pochino le persone tutte le problematiche che ci sono. Io Federico Fellini l'ho conosciuto e sono onorato, orgoglioso e fiero di averlo conosciuto Fellini, e addirittura dico solamente una cosa, ho dei testimoni, non è che dico le cose così. No, ma avanti, ci credo, scherzi, ci credo veramente. E poi ho conosciuto anche il gerarca, quello di Morciano di Romagna, ci mandavamo sempre a salutare, perché lui diceva che un tipo come me, io faccio il rappresentante, no, sarebbe potuto andare bene per fare una versione nuova del film che aveva fatto con Mastroianni e la Loren, quando lui faceva praticamente... Vabbè, adesso si sta allargando troppo, basta, fine, arrivederci, sennò devo segare. Luciano. Buongiorno. Allora, intanto volevo raccontare un piccolissimo episodio legato ad un film interpretato da quei due maestri della comicità che sono stati Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Volevo fare una piccolissima premessa. Ci metta un po' di verve, però, se ci riesco. Sì, d'accordo. Bravo. Allora, il Ciccio Ingrassia e il Franco Franchi sono stati i primi, penso, a introdurre dopo Totò, o a reintrodurre dopo Totò, una comicità di tipo fisico. Il film in questione era Frankenstein Junior e mi ricordo che dalla platea, sulla battuta di Ciccio che diceva c'è una luce sul tuo volto, qualche illuminato alla voce alzata, e riportandomi quindi al discorso di prima, gridò sì, c'era fluida Solex, la famosa cera, la pubblicità che c'era sulla cera per i pavimenti. E il cinema è venuto giù, ma è venuto giù molto più rispetto alle battute di Ciccio, che allora non era molto. Si spiega un attimo, se no non tutti hanno la ricostruzione. Allora, faceva un carosello Franco Franchi, cui lo prendevano a schiaffi, e dice, esatto, nonostante questi schiaffi è ancora un'ottima cera. Lui diceva ottima direi o c'era Grey, Sanson. Certo, ottima direi c'era Grey. E il film era, credo che il film che ha citato l'ascoltatore, era Un mostro e mezzo, perché Frankenstein Junior era di Mel Brooks. Sì. Il film era quello. Sì, sì, sì. Sì, ma si era perso un attimo sul principio di introduzione fisica, adesso abbiamo capito perfettamente. Dunque, Iago e Roderigo stavano tramando nell'ombra contro l'innocente felicità di Otello e Desdemona quando... Otello! Chi è? Otello! Otello, mio signore! Eccolo, arriva lui. Mi manda il doce, i turchi stanno veleggiando verso Cipro. È la guerra! Ho Otello, mio signore, per incarico del doge, vi dice di prendere il comando della flotta e di partire domani stesso verso Cipro per difenderla dai turchi. Vabbè, Cassio, andiamo a fare sta guerra. E adesso andiamo a dormire perché domani si deve marzare presto. Ecco, per chiudere Sansonna in un istante, l'uso che fece Pasolini di questi due. La fine sensibilità, l'intuito profondo di Pasolini riconduce Franco e Ciccio ai pupi che dicevamo all'inizio, che hanno reciso i fili e che sono disseminati, sono partiti per il continente, hanno fatto la loro irruzione, e lui li riconduce alla loro forza arcaica, primigenia, quello di essere appunto una forza del passato. Noi che siamo, ahimè, una debolezza del presente, salutiamo tutti, ringraziamo Sansonna, ringraziamo Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, e in perfetto orario diamo la linea a chi verrà dopo di noi, forse. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.